A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Le carcasse dei cassonetti sono il segno della passata battaglia. Qua, dove la camionetta dei carabinieri ha bruciato, ora resta un'ombra a terra, come le sagome ormai sbiadite dei morti ammazzati per strada, disegnate con un gesso che la pioggia ha in parte lavato. Ora a Piazza San Giovanni il rumore è solo quello del traffico, dei clacson, della gente. Nel giorno degli indignati, invece, è qui che si è consumata la battaglia più cruenta e da qui partiamo per questa puntata di A ciascuno il suo, per capire chi e che cosa c'è dietro il passamontagna dei Black Bloc. Il casco in testa, il passamontagna infilato come gli occhiali antilacrimogeni, il cappuccio alzato, sagome nere come il colore delle loro felpe, si stagliano ora sullo sfondo della piazza San Giovanni degli Indignati, ora tra le strade antiche della Roma degli Studenti o ancora di fronte alle montagne della Val di Susa. Sigle e ragioni diverse finiscono insieme tra i fumi di un'unica protesta che talora diventa guerriglia e allora, annullate le differenze, con una semplificazione cromatica tutti diventano Black Bloc, fantasmi neri delle ultime manifestazioni, spettri delle prossime stagioni. Siamo partiti con un primo step di contestazioni, se resistenze, il lancio dei sassi, gli oggetti contundenti, vedremo se e per chi ipotizzare fatti più gravi. Un'organizzazione nel senso che si erano organizzati per portare dietro mazze, molotov e tutto il resto. Un'organizzazione anche dei comportamenti, nel modo di confondersi con il resto del corteo. Ecco, procuratore, ma voi sulle origini di questi gruppi che idea vi siete fatti? Io sono convinto che questi primi arresti sono solo il primo step di indagini che dovrebbero approdare e identificare molte, molte più persone. A quel punto se ne può riparlare. Prima che le indagini coordinate dal procuratore aggiunto di Roma, Pietro Saviotti, abbiano un quadro chiaro delle anime che hanno infiammato Piazza San Giovanni, è lì, sulla camionetta dei carabinieri sventrata e bruciata, la firma degli incappucciati. La A, simbolo dell'anarchia, ACAB, acronimo contro la polizia, e poi il nome di Carlo Giuliani, ucciso a Genova. Avevano accenti e origini diverse i giovani che hanno divelto bancomat, spaccato vetrine e infiammato insieme alle auto un'intera manifestazione che in alcuni momenti ha cercato di allontanarli. È stata un'azione concertata che ha utilizzato strumentalmente, scrive il giudice Elvira Tamburelli, convalidando gli arresti, la pacifica manifestazione. Ad unire luoghi e persone, destinatari di controlli e perquisizioni, si compone una galassia molto diversa di ambienti anarco-insurrezionalisti, accanto a centri sociali, palazzi occupati, ma anche assemblee di studenti e curve ultra, un elenco snocciolato in Parlamento dal ministro dell'Interno Roberto Maroni. L'attività informativa ha altresì permesso di accertare, accanto alla componente anarco-insurrezionalista, la presenza nella capitale di un segmento estremista di estrazione violenta, di elementi del centro sociale Gramigna di Padova, del centro sociale Ascatasuna di Torino, dei comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo, CARC, attivi soprattutto a Latina, Livorno e Napoli, dei corsari di Milano, del centro sociale Camilo Sianfuegos di Firenze, cui vanno aggiunti omologhi ambienti romani, in primo luogo il centro sociale Acrobax. La Digos Capitolina ha inoltre riscontrato la fattiva presenza nel gruppo dei violenti di skinhead antifascisti della corrente Rush e frange ultras calcistiche riconducibili soprattutto ai fedain romanisti. È in questo calderone di sigle e storie dove i disoccupati organizzati partenopei stanno insieme al centro sociale padovano, già al ritrovo pure di alcuni dei nuovi brigatisti arrestati nel 2007, che gli slogan delle diverse proteste possono talvolta essere sopraffatti dai boati delle Molotov. Così non sorprende che a Bologna, nelle stesse ore in cui il centro sociale fuori luogo veniva perquisito dopo i disordini di Roma, la procura stava per chiedere il rinvio a giudizio per 27 persone che gravitano in quello stesso circolo, compreso un modenese di 32 anni, già arrestato per gli scontri in Val di Susa. Erano partiti da Bologna, appunto, ma anche da Bari, Napoli, dalla capitale, alcuni dei protagonisti dei disordini del 3 luglio contro l'alta velocità Torino-Lione. Accanto ai movimenti della Val di Susa ci sono soprattutto i militanti di Ascatasuna, nome che in lingua basca rimanda alla libertà, ma che nelle informative delle forze dell'ordine evoca soprattutto uno dei centri sociali più estremisti. È qui, dietro un portone rosso nella centrale quartiere Banchiglia di Torino, che si incrociano i frequentatori di un circolo con una lunga storia alle spalle e la nomea di non scendere a compromessi, uno dei portavoci, Lele Rizzo. Sì, è la definizione che abbiamo sempre, ho letto anche di recente che tra di noi ci potrebbero essere le nuove Brigate Rosse. Io non so cosa si intenda realmente per estremismo. Se pensiamo ai centri sociali oggi, probabilmente sì, perché partecipano a delle attività sociali diverse da quelle che i centri sociali hanno sempre svolto nel tempo, cioè quella di essere comunque luogo di cultura alternativa, che non scende a patti con nessuno, che non ha padrini, che non ha padroni. E a chi dice che in alcuni centri sociali, il vostro ad esempio, oppure nel nord-est il centro di Padova, il Gramigna, chi dice che ci possono essere innuce forme di una protesta che possa degenerare? Se ci chiedono di scendere a compromessi, sicuramente no, e quindi saremmo ancora una volta l'anomalia. Dico, non cerchiamo una poltrona in Parlamento, in un consiglio comunale o altro. Rispetto al tema violenza, siamo gli stessi pronti a manifestare tranquillamente, come piuttosto a tentare di forzare un blocco. Nel retroscena della Piazza degli Indignati, l'ombra di uno scambio tra l'occhio chiuso alle violenze e la promessa di una candidatura si è allungata sul partito di Nichi Vendola e su uno dei leader del movimento, Luca Casarini. Entrambi smentiscono. A Genova Casarini era il punto di riferimento dei disobbedienti, a Roma era sul camion Uniti per l'Alternativa e già da lì sollevò la necessità di una distanza esplicita dai Black Bloc. Purtroppo dobbiamo fare i conti con questa situazione, che evidentemente bisogna discutere come è possibile che ogni volta che c'è una cosa straordinaria di questo tipo poi entrino in gioco dei fattori esterni che proprio se ne fregano delle decisioni democratiche collettive, usano i cortei per fare dell'altro. È possibile che delle persone che anche un po' singolarmente piccoli gruppi sfuggano anche all'organizzazione di chi? Sì, cioè come è stato per le manifestazioni degli studenti? E questa è la realtà, cioè qui io sono in mezzo a decine e decine di migliaia di ragazzi, sono contenti per la tanta gente che è venuta, ma hanno la mano in bocca per il fatto che dopo alla fine bastano 500 persone che non si capisce da dove vengono. C'è qualcosa che ti richiama Genova? Qua veramente il corteo ha un modo di fare, una composizione completamente diversa, e cioè qua il nodo era la partecipazione e questa partecipazione è stata straordinaria. Ma davvero quella piazza non immaginava e non conosceva gli incappucciati? In realtà c'è chi, come Andrea Alzetta, attivista di Action, racconta altro. Prima della manifestazione del 15 ottobre, anche all'interno delle vostre riunioni erano emerse queste voci, diciamo, più estreme? Certo, per questo motivo credo che abbiamo fatto un errore. Da parte di chi erano emerse questi slanci anche più estremi, che quindi si presumeva potessero sfociare in atti più violenti? Se pensi che sia una domanda, io ti faccio i nomi. Ammette una conoscenza, ma poi si volta dall'altra parte dunque, uno dei rappresentanti del coordinamento dei movimenti, e la domanda è: sono forse proprio certe ambiguità a lasciare spazio alla violenza? A ciascuno il suo. Dopo i fatti di Roma, è facilmente prevedibile che lo sforzo per garantire l'ordine pubblico nelle nostre città sarà destinato a crescere in quello che si preannuncia un nuovo autunno caldo. Sarà così? Dalle manifestazioni di indignati e studenti alle proteste della Val di Susa, passando per i cortei sindacali, l'attenzione è molto alta. Quanto diffuso è il malcontento. A preoccupare anche il coinvolgimento sempre più frequente di giovanissimi, spesso minorenni, più difficili da inquadrare, ma vicini all'area anarchica, secondo la relazione al Comitato di Controllo dei Servizi Segreti del capo della polizia, Antonio Manganelli. È la rabbia che si salda con gruppi organizzati, analizza Andrea Alzetta, attivista romano di Action. È inaccettabile che quelli che sono gli obiettivi e i modi decisi dalla stragrande maggioranza di chi ha promosso quelle manifestazioni vengano stravolti e sovradeterminati da gruppetti ultraminoritari che ci vedono un'insurrezione che io sinceramente in questo paese non vedo. Ci hanno in testa appunto di fare i riot come a Londra. Prima della manifestazione del 15 ottobre, anche all'interno delle vostre riunioni erano emerse queste voci, diciamo, più estreme? E certo, per questo motivo credo che abbiamo abbiamo fatto un errore, ripeto, anche nella disposizione del corteo ci siamo un po' ritrovati incapaci di gestire anche un gruppetto che all'inizio era abbastanza piccolo, e che secondo me appunto se non si univa con una rabbia diffusa da una generazione. Quando tu dici sì, certo che sono emerse anche nelle riunioni in cui si pianificava e si discuteva sull'organizzazione della manifestazione, da parte di chi? Di quali gruppi? Se pensi che sia una domanda che ti faccio i nomi di qualcuno ti sbaglio. No, delle aree diciamo. Bastava andare sui vari siti delle varie realtà che hanno aderito ma non hanno partecipato alla costruzione del comitato 15 ottobre per capire che dibattito c'era. Lì il problema vero è che noi abbiamo sbagliato a sottovalutare, però quello che non dobbiamo fare, e secondo me oggi lo fa chi chiede solo più polizia, producono esattamente la saldatura invece di una rabbia generazionale con piccoli gruppetti che teorizzano improbabili insurrezioni. Un mea culpa, almeno dichiarato. A non lasciare più ambiguità, il banco di prova saranno le altre future manifestazioni che riproporranno la questione violenza. Ma come viene affrontata in uno dei centri sociali considerati più estremisti? Lele Rizzo di Ascatasuna. Siamo gli stessi che fanno tutti i tipi di manifestazioni, cioè quella, non so, che dove non succederà mai niente, come quella che può succedere qualcosa magari perché la polizia non ti lascia andare nella via che avevi deciso. Siamo gli stessi pronti a manifestare tranquillamente come piuttosto a tentare di forzare un blocco. Due facce, due strade, due linee a seconda che ci si trovi in Val di Susa o a Roma. Una rabbia giovanile con un grande, largo strato di giovani che evidentemente non sopporta più la situazione attuale in dei momenti specifici. Si è poi trasformato in una rabbia motivata in seguito poi alle cose che sono successe. Quei gesti anche di violenza che ci sono stati erano prevedibili oppure no? Andavano messi in conto. Quella manifestazione a mio avviso doveva essere precisa, doveva essere indirizzata verso i palazzi del potere. Si sentiva la tensione, si respirava nell'aria. Lì c'era un percorso ben predefinito che non permetteva di andare verso, esatto, non so, i palazzi simboli dei ministeri. La grande forza sarebbe stato fare un altro percorso, forse. Quelle macchine bruciate, quei bancomat, quell'assalto alla camionetta dei carabinieri, da parte di chi è partito? Il secondo pezzo della manifestazione, quello che ha visto la contrapposizione alle forze di polizia, quella è una dinamica normalissima di piazza. Sul resto ho anche dei dubbi, nel senso che non penso ancora oggi che si possa fare una grossa differenza tra la macchina di un miliardario e la macchina di un poveraccio, ad esempio. Andrò in Val di Susa come sono sempre andato, e la Val di Susa e Roma distano 700 chilometri. In Val di Susa il movimento è chiaro, esplicito, e ci si comporta di conseguenza. Quanto è facile e quanto è frequente che arrivino all'interno delle manifestazioni persone che non si conoscono? Se chiede a me cos'è un infiltrato, per me è il poliziotto. Un poliziotto travestito da manifestante. Quante volte vengono persone che non si conoscono, e mi auguro sempre di più. Ad esempio in Val di Susa il 3 di luglio molti hanno detto non erano persone del nostro movimento. Abbiamo avuto anche coraggio provocatorio di dire siamo tutti Black Bloc. Sicuramente a quella manifestazione del 3 luglio hanno partecipato tantissime persone che non conosciamo di tutta Italia, ma erano messe in un contesto che quel giorno era un contesto di lotta che si è trasformato poi anche in un contesto di battaglia. Per me vale un po' lo stesso discorso su Roma, un corteo chiaro, anche chi non si conosce si adegua. Vuol dire che c'è stata una forma di ambiguità nell'organizzazione della manifestazione di Roma che ha fatto sì che si potesse mettere in conto che ci fossero gli scontri. La lettura che gli do è veramente quella di una giornata dove la rabbia covava, lasciando un po' il margine a tutto. Si è parlato di una formazione avvenuta all'interno delle zone della Valle di Susa. Qua nessuno si addestra, nessuno si è venuto ad addestrare. I boschi della Val di Susa dicono tutt'altro che queste cose qui. Il punto di congiunzione che c'è tra la Val di Susa e tante piazze di questo mondo è la voglia di cambiare la situazione attuale. Chi sono secondo lei quei ragazzi che hanno assalito la camionetta dei carabinieri? Ci vedo veramente un dato spontaneo molto grosso. Però organizzata lo era, ci potrebbe essere stato un effetto contagio. Nella complessità secondo me c'è di tutto, c'è chi era organizzato, c'è chi non lo era, c'è chi si è portato il casco e la maschera antigas da casa e chi invece se l'è proprio organizzato. E da Torino? E anche da Torino ognuno si sia portato il suo casco, la sua cosa, se lo riteneva fondamentale per quella giornata. In Val di Susa, già l'estate scorsa, si inerpicarono camion e auto carichi non certo di merende, ironizza il sindaco di Chiomonte, Sandro Pinarda, il cui timore ora è il rischio per il suo comune di essere marchiato come palestra di guerriglia. Quando le manifestazioni sono organizzate e soprattutto seguite dai comitati, vanno in un certo modo. Quando i comitati sono in difficoltà, viene preso sopravvento altre frange, tipo gli anarchico, i insurrezionalisti, come si chiamano, i centri sociali, succedono queste cose qua come il 3 di luglio. Però non nascondiamoci che tante del comitato il 3 di luglio non avevano delle posizioni contro questi personaggi che facevano i violenti. C'erano tantissimi stranieri, visto che facevano comunque tutta l'estate, hanno fatto degli incontri su tema, dai popoli baschi. Ogni tema che facevano arrivavano persone. Quindi il fatto anche che si dica che ci possa essere stata una sorta di formazione di alcuni gruppi nella zona della Val di Susa, lei stesso l'ha visto in atto? Se far arrivare gente era prepararci per Roma, può anche starci. Se ci fosse di nuovo un periodo mediamente caldo, la invito a stare 2 o 3 giorni su nel mio comune. Vede arrivare di tutto, furgoni che sono di veri, che sono pieni. Queste persone qua, li vede che vengono qua e si portano dietro la merenda. Negli incidenti verificatisi in Val di Susa quest'estate, era possibile cogliere i segnali di una recrudescenza del fenomeno insurrezionale, che vagheggiando una deriva greca della situazione socio-economico-politica italiana, ha individuato nelle proteste NOTAV il laboratorio ideale dove sperimentare pratiche di guerriglia, da poter esportare adattandole in contesti urbani, in previsione di un autunno caldo sotto il profilo delle manifestazioni di piazza. In realtà, quello che l'intelligence segnala e il titolare del Viminale denuncia è proprio uno spostamento dalla montagna alla città di tecniche di guerriglia. E a questo punto i movimenti devono imporsi regole drastiche, secondo Gianni Paoletti, sindacalista già membro di ATTAC ai tempi di Genova. Queste cose non succedono a caso, non sono gruppetti di gente che a un certo punto gli girano le scatole più degli altri. Quella di sabato era una cosa organizzata, voluta, in cui qualcuno rivendica il grande successo politico e quindi ha intenzione di ripeterlo successivamente. Siccome c'è questo, è chiaro che chi ha gestito questo movimento finora deve avere una capacità di concordare politicamente le cose assieme meglio. Per esempio, una regola elementare: a Cortè non deve partecipare nessuno che abbia caschi, e se qualcuno non rispetta questa regola deve essere allontanato dal corteo. Scassare. Messo letteralmente in atto nelle violenze, il verbo viene però ripetuto nelle più varie sfumature nel lessico dei giovani, giovanissimi come la maggior parte dei fermati di Roma, e nel loro linguaggio ci porta questa settimana la tradizionale chiusura letteraria di A ciascuno il suo, un linguaggio analizzato da Stefano Bartezzaghi, enigmista, nel suo ultimo libro Come dire, edito da Mondadori. Una parola correttissima della lingua italiana che significa rompere, frantumare, sono spaccato il braccio o mi sono spaccato la schiena per dire ho lavorato troppo. Poi è entrato nel lessico giovanile da non moltissimo in un significato estensivo, qualcosa che spacca è la canzone prima in classifica, qualcosa che ha molto successo, esprime appunto la violenza che erompe, magari appunto in un fenomeno positivo, ed è interessante proprio il fatto che acquisisca questa connotazione positiva. Normalmente qualcosa che rompe, anche in senso figurato, è qualcosa che dispiace, invece spaccare in quel senso può diventare anche addirittura una cosa positiva, e quindi persino l'azione distruttiva può a sua volta contenere qualcosa di buono, no? Cioè spaccare tutto. Se avete domande o commenti ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra precedente rubrica, o sull'audioblog Storiacce. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di A ciascuno il suo, radio24.it nella sezione podcast, oppure direttamente su iTunes. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.